Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Se fosse papa sarei allor giocondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo, se fosse morte andarei da mio padre. E se io fossi un giorno della settimana vorrei essere il venerdì. Buongiorno da Nicoletta, si avvicina il weekend e ad alcuni l'idea fa stare già meglio. L'umore migliora, gli acciacchi svaniscono, si fanno sentire meno, il giorno che precede la fine settimana sembra avere un potere benefico. Anche la ricerca lo dimostra, come riporta il portale di Salute 24. Più atteso del giorno del compleanno, più desiderato della serata di coppa, più efficace del farmaco più efficace, è il venerdì. Lo assicurano gli psicologi dell'Università di Rochester, che hanno condotto il primo studio sulla variazione dell'umore durante la settimana. Si chiama effetto weekend, inizia venerdì pomeriggio e si conclude domenica sera, un periodo magico in cui spariscono acciacchi, attacchi di ansia e si sperimenta una maggiore vitalità. Lo studio, pubblicato sul Journal of Social and Clinical Psychology, ha esaminato l'umore settimanale di 74 adulti tra i 18 e i 62 anni, con 30 ore settimanali di lavoro. Per 3 settimane e per 3 volte al giorno, gli psicologi, guidati da Richard Ryan, hanno testato il loro livello di soddisfazione. Risultato? Malanni e guai psicologici si riducevano nel fine settimana, quando le persone sperimentano una maggiore autonomia e socievolezza, spiega Ryan, rispetto al tempo del lavoro pieno di attività che includono controlli esterni, scadenze temporali e incombenze legate al lavoro e alla cura dei figli. Vi riconoscete? Allora vi invito a dire la vostra, a diventare protagonisti di questa puntata in cui mi piacerebbe raccogliere idee e consigli per un weekend rigenerante. Avete una ricetta? Che cosa fate di nuovo e di diverso nella fine settimana per arrivare il lunedì belli carichi e pimpanti? Dormite di più? State con i vostri figli? Andate al cinema dall'estetista a fare shopping? Cucinate? Correte? Guardate la TV? Allora provate a scrivere 2 cose necessarie per il nostro benessere da fare nel weekend e 2 cose da cercare di evitare. Qualcuno ha bisogno di voi. Sentite la nostra Vox Populi che racconta l'altra faccia del weekend. Ma guarda, viaggio molto durante la settimana e cercando magari la domenica di riposarmi e di rimanere con la famiglia. Di solito arrivo al venerdì piena di idee per, non so, passare il weekend con gli amici così, però poi sono troppo stanca, mi rinchiudo in casa, dormo sabato, domenica e arrivo al lunedì che sto peggio di prima. Ma a me capita spesso di provare un forte mal di testa dovuto allo stress, per esempio, nel weekend. Stando tutto il giorno al lavoro, avendo poco tempo da dedicare alla famiglia, quando mi ritrovo nel weekend, stare dietro ai figli, alla casa e tutto il resto, faccio veramente fatica a organizzare tutto e a gestire la situazione quasi. Voi da che parte state? 800 24 00 24. Intanto io saluto il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Allora professore, oggi weekend tra benessere e malessere, gli ascoltatori sono invitati a darci consigli di benessere e tra l'altro ci sono 3 copie per loro del compendio di psicoanalisi che viene, sapete che il Sole ha questa raccolta di opere di Freud e noi vi regaleremo, vi faremo ricevere a casa 3 dei compendi. Dateci la vostra ricetta, ma professor Barbanti, lei insieme ad altri esperti ci aiuteranno ad avere strategie per prevenire e risolvere alcuni disturbi che spesso si presentano proprio nel weekend, ad esempio il mal di testa. I primi fastidi di solito si fanno sentire già al risveglio del sabato, la testa pesante, il senso di costrizione, difficoltà a concentrarsi, anche talvolta a tollerare la luce e i rumori. Ma allora, come mai? Quando abbiamo tutto per star bene, iniziamo a stare male. È proprio così, ma volevo fare, se possibile, una piccola riflessione sulla bellissima introduzione. Pensavo quanto tempo, quanta strada è passata. Una volta c'era il sabato del villaggio, adesso giustamente abbiamo anticipato, c'è il venerdì di noi occidentali quando molliamo la tensione. E questa è la condanna degli emicranici, sostanzialmente, condannati al moto perpetuo, finché sono accesi, finché la loro attività mentale è particolarmente elevata, finché sono anestetizzati dagli alti livelli di cortisolo e di adrenalina, tutto va bene. Un po' come Paolo e Francesca, che sono costretti a girare nel vortice, in quel caso infernale, ma di passioni, l'emicranico paradossalmente sta proprio bene in qualche maniera quando è molto indaffarato. Quando invece frena, il suo cervello stranamente non riesce a dosare bene lo svincolo, l'uscita autostradale, e incappa frequentemente per diverse ore, a volte non solo il sabato ma anche la domenica, in un mal di testa. C'è qualche trucco, senza dubbio, che può essere consigliato agli ascoltatori, però è una peculiarità di un cervello con un motore potentissimo e con i freni un po' bizzarri. Ecco, non hanno esattamente l'ABS i cervelli emicranici. Qualcosa si può fare, però, professor Barbanti. Possiamo ad esempio giocare d'anticipo, e lo facciamo subito con Benedetta Spada, maestra di yoga, che è in linea con noi. Benedetta, benvenuta. Buongiorno a tutti, sono Benedetta. Possiamo cercare di evitare il mal di testa dal fine settimana, cercando di rallentare un po' il passo. È un invito e un consiglio che diamo agli emicranici, che non staccano mai la spina, hanno bisogno di stress, sembra. Sì, esatto, infatti è molto interessante quello che appunto diceva il dottore. È una cosa così, accade appunto che le persone nel momento stesso in cui staccano, si disconnettono o si ammalano, oppure appunto cadono in emicranie a volte anche abbastanza limitanti. E noi con la pratica yoga, o comunque con una pratica benessere, possiamo provare a prevenire, non solo a curare, questi stati di stress e di tensione. Possiamo iniziare quindi a riconoscere il nostro respiro, quindi iniziamo magari proprio con il venerdì sera, quando andiamo a letto, a prenderci cura di noi, scaricando la tensione, portando l'attenzione su un pensiero positivo che accompagnerà il weekend. Cioè, invece che pensare già al lunedì mattina a tutto quello che dobbiamo fare nel weekend per arrivare a lunedì mattina con maggior leggerezza, pensare invece a cosa ci piace fare e come farlo durante i giorni di riposo. Iniziamo con l'inspiro che ci accompagna e raccoglie le nostre intenzioni, e l'espiro che lascia andare le preoccupazioni. E questo lo facciamo proprio coricandoci. Inspiriamo e iniziamo a visualizzare davanti a noi quelle che sono le nostre intenzioni positive, ed espirando lasciamo andare quelle che sono le preoccupazioni della settimana che ci lasciamo alle spalle, o addirittura della settimana che è a venire. Quindi inspiriamo il benessere e buttiamo fuori il malessere e le preoccupazioni. Allora, Benedetta, resta con noi per suggerirci altre pause di benessere. Professor Barbanti, basta questo? Beh, bellissimo quello che dice Benedetta Spada, ed è in realtà vero. La tecnica yoga, tradotto in un brutale termine neurologico, aiuta a controllare il sistema nervoso vegetativo, quella parte poco visibile del nostro sistema nervoso che controlla e a volte contrae i nostri visceri. Un po' la fantasia al potere, sconvolgiamo le vie degli empi via questa iperattivazione del sistema nervoso autonomo, basta questo controllo che la corteccia cerebrale a volte fa in maniera eccessiva sui nostri visceri. Certamente è una tecnica utile, deve essere fatta da persone qualificate e deve essere fatta regolarmente, concordo perfettamente, non per curare, non solo, prevenire, impariamolo un po' tutti. Professor Barbanti, il weekend è fatto per riposare, per recuperare, quindi noi tutti cerchiamo di dormire di più, no? Di svegliarci quando ne abbiamo voglia, senza l'incubo della sveglia, ma non a tutti questo fa bene, eppure siamo tutti in debito di sonno. Ah, dicevamo prima, chi fa certamente poco bene l'eccesso di sonno è proprio un paradigma, credo che non ci siano altri, siano gli emicranici, oltre che i perditempo, ma questo evidentemente non è patologia. Fa invece estremamente bene a chi si è stressato e vorrei perdere solo qualche istante per spiegare come mai il sonno ha un'importanza così enorme, specie la seconda parte del sonno, quella che è ricca di sonno REM, ricca di parte e quindi sognante, perché durante questa seconda fase del nostro sonno, quella a cui rinunciamo alzandoci presto, noi rielaboriamo le emozioni. E cosa succede? Il sonno REM sveste le emozioni, i ricordi dalle emozioni negative, questo è straordinario, perché riaccende le aree della memoria, ma mettendo come direttore d'orchestra non più la noradrenalina, l'ormone dello stress, il neurotrasmettitore dello stress, ma l'acetilcolina, e quindi riviviamo gli eventi che abbiamo immagazzinato in maniera negativa, in maniera più lucida, non drammatica, li contestualizziamo, come si usa ormai purtroppo dire. In questa maniera, quindi, veramente quello che ci dicono le mamme, ci hanno sempre detto, dormi che ti passa, ha una profonda base neurofisiologica. Tra l'altro, perdere sonno in maniera reiterata facilita, e questo è stranissimo, il consolidamento delle emozioni negative. E sempre le nostre mamme, le nostre nonne, quando ci dicevano ma se non dormi ti ammali, beh, la depressione può in parte derivare dal consolidamento di emozioni negative dovuta a sonni troppo brevi. Quindi andiamo a letto il fine settimana, godiamocelo se non siamo emicranici. E possiamo anche poltrire un po' sotto le lenzuola, questo è sicuramente una coccola di benessere. Intanto volevo chiedere ai nostri ascoltatori di continuare a mandarci le ricette per un weekend, le cose da fare, le cose da cercare e da evitare, 3 copie di compendio di psicoanalisi che fa parte della collana Tutto Freud per capire, per capirsi, del Sole 24 Ore. Vediamo Riccardo dalla provincia di Pisa, buongiorno Riccardo, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Il mio era un intervento un pochettino più venale rispetto a problemi di natura di salute. Mi piaceva segnalare, per esempio, che una di, almeno quello che mi hanno insegnato delle operazioni di marketing, dove le aziende non è meglio mai andarle a trovare di venerdì o fare delle riunioni di venerdì, perché tutti pensano al sabato e la domenica. Non ti danno retta. E mai di lunedì mattina, perché sono super stressati dal ritorno praticamente all'attività lavorativa. Quindi venerdì hanno la testa parari e lunedì sono di umore nero. Di umore nero, e quindi... questo negli Stati Uniti è fondamentale, perché riunioni di brainstorming il venerdì o di lunedì mattina non si fanno mai, ecco. Grazie Riccardo, ne faremo tesoro. Andiamo a Lucca, c'è Renzo, buongiorno. Buongiorno. Io ho un lavoro che mi impegna moltissimo, di conseguenza facendo l'autista è un lavoro molto stressante. E ho imparato un piccolo trucco. Praticamente io dedico almeno 3 volte a settimana un'ora del tempo per me, o per rilassarmi, o per una passeggiata in bicicletta, o a piedi, proprio di staccare con tutto il mondo, senza aspettare il fine settimana, che uno accumula tutta questa energia negativa e poi non si riesce nemmeno a scaricarla. Tanto un'ora di tempo per noi riusciamo a trovarla almeno 3 volte a settimana. Bisogna secondo me è un toccasana. Grazie Renzo. Ho chiesto agli ascoltatori di darci più di consigli, ma questo di Renzo mi piace, e quindi a Renzo faremo ricevere a casa una delle copie del compendio di psicoanalisi. Grazie Renzo. Ritagliarsi, professor Barbanti, un'ora durante la settimana, possiamo farlo tutto, che il tempo vola via e noi ci dimentichiamo, ma questo è veramente una cosa che possiamo fare senza, non ci costa nulla e ha degli effetti magnifici, provati anche dalla ricerca. Certamente sì, quando noi vediamo ancora alcune persone, non so, orientali per esempio, che hanno dei ritmi molto più lenti dei nostri, ci accorgiamo che non sono settati, non sono programmati per avere il ghigno terribile che noi abbiamo durante la settimana. Il ritagliare uno spazio di tempo vuol dire consentire il recupero. Nessun atleta penserebbe di correre fisicamente al ludo durante tutta la giornata. C'è il recupero, nello sport il recupero è assolutamente comprensibile e venerato addirittura. Lo dimentichiamo per il cervello. Renzo ci ha visto lungo, lo sport consente di dare una eccellente vacanza al cervello, stimolare le endorfine se non è uno sport particolarmente violento e stressante, e consentire di, al cervello di recuperare tutte quelle parti energetiche e di smaltire anche parte dei rifiuti. Io dico sempre che il cervello, come già dissi una volta in una trasmissione vostra, ha bisogno di una raccolta differenziata dei rifiuti, mandare via i suoi metaboliti tossici, insomma tutto questo ricavando degli spazi di tempo libero, anche brevi, anche non necessariamente quotidiani, risulta assolutamente più facile. Bravo Renzo. Bravo Renzo e anche brava Barbara che ci scrive: meditazione, natura, rigeneranti, discussioni, rumori e centri commerciali da evitare. Questa è la ricetta di Barbara. Ma molti ascoltatori, professor Barbanti, Benedetta, magari puoi aiutarci anche tu, lamentano il mal di testa e lamentano un cattivo rapporto con il sonno. Proprio nel fine settimana c'è chi rimane assonnato tutto il giorno e chi, regalandosi un'oretta di sonno in più, sente la testa che scoppia. Professor Barbanti. La prima cosa che lei mi ha detto mi appassiona molto: essere un po' rintronati il sabato per me è indice di massima salute. Nel senso che quando noi solo il sabato, tutta la settimana, perché sennò io scoppio di salute. No, tutta la settimana creerebbe qualche problema. Ma noi in realtà il sabato ci svegliamo struccati. Ecco, insomma, ne sanno qualcosa le donne. Siamo un po' diversi rispetto a ciò che siamo durante la settimana. Siamo esattamente ciò che siamo. Noi siamo in qualche maniera dopati dalla nostra adrenalina, dopamina, cortisolo, e questa sensazione di sfasamento, fiacca, mente torpida, muscoli a volte deboli, è esattamente il nostro ritmo biologico che spesse volte tiriamo per la giacchetta per forzare. Quindi abbandoniamoci, la stagione lo invita, insomma siamo ancora in un autunno, non è ancora neanche stagione per andare a sciare, manca la neve, godiamoci l'ozio, è una maniera per coltivare il ritmo del nostro cervello. La seconda domanda era riferita invece al mal di testa. Beh, chi ci ascolta deve imparare che il venerdì in particolare vengono presi molti biglietti alla lotteria del mal di testa. Andare a letto più tardi e il giorno dopo alzarsi più tardi, mangiare di più, bere di più, fare uno stravizio, emozionarsi con incontri galanti. Beh, insomma, se uno scende da un treno in corsa, un emicranico, il giorno dopo non può che avere mal di testa. Cerchiamo di ridurre questa congiunzione astrale favorevole, eliminiamo alcuni di questi fattori, magari possiamo dormire tranquilli. Nicolas da Milano, 800 24 00 24, buongiorno. Sì, buongiorno. Io faccio un lavoro un po' particolare, nel senso infermiere, quindi si viaggia sui tre turni, mattino, pomeriggio, notte, lavorando anche il weekend. Quindi il corpo si disabitua dall'avere magari due giorni di riposo, ogni cinque di lavoro, o viceversa. È difficile comunque con dei ritmi del genere capire bene quando riuscire a riposarsi e riposarsi certo. In modo decente, perché stando alzato tutta notte, poi non è che uno va a casa, dorme e si riposa come se fosse notte. Io personalmente ogni tanto vado in piscina, quindi il fatto di stare nell'acqua, isolarsi completamente da odori, rumori, sensazioni, aiuta, però in effetti è pesante. Quindi magari qualche consiglio per rimettersi su. Professor Barbanti, i turni massacrano. Mi massacrano, anche se devo dire, da medico, parlando a una persona delle professioni mediche, quindi a un infermiere, che i nostri turni, che pur massacrano molto perché abbiamo a che fare con vite umane, a volte in pericolo, sono in parte meno massacranti, per esempio, di turni, non so, in fabbriche di metallurgia, per un motivo, perché si spera che chi fa questo mestiere sia ripagato in itinere, cioè ci sia uno stress di applicazione mentale, ma non un senso di frustrazione che a volte in certi lavori ci può essere. Non vuole essere bassa retorica la mia, ma sono senza dubbio lavori che non puoi fare se strada facendo, mentre lavori, non hai in parte una fatica fisica ripagata da un relax emotivo. E la piscina, niente di meglio, la piscina è la cosa più alienante che ci sia, perché non solo stacchi il cervello ma stacchi il corpo, non hai più le informazioni degli arti che gravano sul pavimento, sei a gravità in parte alterata, se non sensibilmente ridotta, e ovviamente ha un effetto rilassante muscolare, quindi tutto il sistema limbico viene baciato da influssi positivi e rilassanti. Voglio leggervi, prima di andare ai mercati, dei messaggi che mi avete lasciato sulla nostra pagina Facebook. Deborah ci scrive: bella differenza tra quello che mi piacerebbe fare e quello che devo fare. Con due bimbi in casa e la settimana di lavoro, gli arretrati non mancano mai, ma cerchiamo di fare qualcosa insieme, magari anche a casa, per godercelo un po'. Giochi, ricette culinarie particolari, relax. Loredana mi scrive: a volte il fine settimana è più frustrante del resto della settimana, perché vorresti finalmente riposarti e staccare la spina, ma ci sono sempre troppi impegni con due bambini, quasi ragazzi, da seguire. E Laura: passo il fine settimana tra la spesa e i campi di pallone per seguire i miei ragazzi, corro più il sabato che tutta la settimana, ricarico le pile la domenica sdraiata sul divano col mio compagno a vedere film. Troppo poco e niente di eccezionale, ma al momento è quello che mi posso permettere. Essere e benessere. Profumo di weekend. Allora, possiamo organizzarci perché il nostro weekend diventi per noi una vera pausa di benessere, il che non significa che non dobbiamo fare nulla, anzi fare delle cose che ci fanno stare bene, cercando di ridurre le occasioni di stress, di disagio. Benedetta, io vorrei che tu ci suggerissi una cosa da fare il sabato mattina per iniziare bene il weekend. Guarda, una cosa importantissima è prenderci il tempo ancora prima di alzarci dal letto. Quindi perché non iniziare proprio con un rilassamento, ovvero riprendere consapevolezza dei nostri sensi, quindi di tutto il nostro corpo, ma al di fuori di quegli stati di stress che ci accompagnano durante la settimana. Quindi inviterei le persone, ancora prima di scendere dal letto, a iniziare a portare l'attenzione sulla percezione dei loro piedi e ripercorrere dalla pianta dei piedi fino al capo tutto il corpo, quindi percepire le gambe, se si percepiscono, se si avvertono tensioni, lasciarle andare a livello muscolare, percepire il tronco, l'addome, il torace, le spalle, le braccia con le mani, e lasciare andare eventualmente tensioni anche accompagnandole con una profonda espirazione, e poi giungere fino al capo e al volto, rilassando completamente il volto, proprio iniziando così la giornata su un ascolto del corpo diverso, che spesso ci dimentichiamo totalmente durante appunto l'arco della settimana. Cioè, noi siamo super attivi, ma ci perdiamo completamente il nostro corpo tramite pezzettini. Quindi domani, Benedetta, noi che insomma siamo qua insieme oggi, domani ci facciamo questa promessa: non ci alziamo dal letto subito, ci regaliamo qualche minuto per poltrire sotto le lenzuola, seguendo le tue indicazioni, quindi cercando dai piedi su fino al collo di rilassare i nostri muscoli. Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo il tram. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 2 secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata dentifricio mentolato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo 5, di 6 secondi 5, netti. 2, 1. Ha ancora un patrimonio di 3 minuti per vestirsi e correre alla fermata del suo autobus che passa alle 8:01. No, domani niente fretta, prendiamocela con calma e soprattutto gustiamoci con calma una prima colazione. In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro, buongiorno. Buongiorno. possiamo dare questo consiglio per iniziare bene il weekend? Facciamo colazione. Molti di noi durante la settimana, per la fretta, per così la cattiva abitudine, trangugiano un caffè al volo. Invece il weekend proviamo a sederci a tavola con le persone che amiamo, con i nostri bambini, prepariamoci qualcosa di buono, ricarichiamoci, perché anche quello che mangiamo al mattino, soprattutto al mattino, condiziona le nostre, il nostro modo di vivere, anche il nostro modo di pensare, il nostro umore. No, senza dubbio, direi anzi che in linea con quello che stavate dicendo voi, il weekend lo dovremmo utilizzare per sperimentare delle tecniche, degli approcci che magari durante la settimana risultano più difficili e che sono molto utili a farci recuperare e a farci ritrovare benessere. Uno dei problemi principali è proprio questa variazione brusca di ritmo tra la settimana che è super attiva, molto adrenalinica, e poi il rallentamento del weekend. La colazione è uno dei punti cardine di un'alimentazione corretta, giustamente come è stato appena sottolineato, spesso sottovalutata, addirittura saltata, in particolare in Italia purtroppo abbiamo molto spesso questa abitudine, e quindi il weekend deve essere un momento per provare delle però cose quando diverse. Ci mettiamo a fare colazione, noi li battiamo tutti, Ma io credo che gli italiani abbiano tanti vantaggi anche sul piano alimentare, però bisogna stare attenti a non perderli. Cioè, una delle caratteristiche di quello che è successo in Italia negli ultimi 20-30 anni è che abbiamo un po' perso alcune delle nostre tradizioni, ci siamo avvicinati di più a questa alimentazione un po' confusa che è molto tipica degli americani. Credo che il weekend, per esempio, possa essere un buon momento per sperimentare una colazione diversa, un po' più proteica. Possiamo dare qualche indicazione? Ad esempio, dolce o salato, ciascuno sceglie come più gli piace? O ci sono delle... Sì, io credo che anche la definizione dolce salato sia un po' estrema, cioè io non credo né nell'uno né nell'altro, possiamo propendere nella colazione per una versione di cereali integrali, di frutta, cioè di qualcosa che sia sicuramente più zuccherino ma naturale, non dolce inteso come zucchero aggiunto, o viceversa, più che salato, una colazione che sia un po' più proteica, quindi per esempio sperimentare nel weekend l'utilizzo delle uova, per dire, che sono un alimento molto digeribile, che ha una componente proteica molto forte, rapida da preparare, estremamente saziante. Se lo provate vi accorgerete che mangiando ogni tanto un paio d'uova alle mattine non avrete quel buco nello stomaco a metà mattina che vi costringe magari a correre al bar per prendere il cappuccino con la brioche. Quindi il weekend, rallentamento, godersi il tempo, provare delle cose diverse e inserire quelle cose che sappiamo che ci fanno bene, che spesso mettiamo non abbiamo da parte tempo. Esattamente, perché non abbiamo il tempo per dottor curarlo. Ongaro, insieme al professor Barbanti abbiamo parlato della cefalea da weekend. Ci sono degli alimenti che possono aiutarci, soprattutto alle persone che sanno se l'aspettano e quindi si alzano già al mattino magari con la testa un po' pesante? Sì, io credo che prima di tutto sarebbero da evitare gli alimenti che sappiamo che possono provocare il mal di testa, sono gli alimenti ricchi di tiramina, quindi tutte le carni processate, i salumi, le salsicce, i peperoni, la salsa di soia per esempio, cosa che per dire può avere un incremento molto repentino proprio nel weekend se scegliamo per esempio di andare a mangiare in un ristorante giapponese e quindi che ci offre qualcosa che normalmente noi non mangiamo. Poi certo ci sono anche dei cibi che ci possono aiutare, in particolare io consiglio cibi ricchi di calcio e di magnesio, che sono poi tutte le verdure che vogliamo, quindi torniamo al fatto che un'alimentazione naturale con un alto carico di cibi vegetali fa bene un po' per tutto. Il caffè, facciamo un po' attenzione, perché quello che conta nel caffè sono le variazioni di introito più che il valore assoluto, cioè se ne aumentiamo molto l'introito o lo diminuiamo di colpo, il caffè è uno di quelle di quegli alimenti che può variare, può far variare l'incidenza del mal di testa. Però Ugo da Lecce mi scrive che al mattino, da quando prende, quando ha mal di testa, il sabato, a lui viene di più la domenica, lui prende caffè e limone e tutto sparisce. Professor Barbanti, caffè e limone, di questo rimedio che sembra della donna, della nonna, ne avevamo già parlato, ma funziona o è solo per Ugo? Beh, la parte del limone è forse il residuo di una medicina punitiva, il limone non serve. Il caffè, diceva correttamente il dottor Ongaro, serve purché non ci siano brusche variazioni, diceva, ed è vero, e purché non si superino una dose che ormai è stabilita intorno alle 3 tazzine al giorno. Alludiamo al caffè espresso, non al caffè americano. In questo caso il caffè è una blanda azione vasocostrittrice e poi è in qualche maniera, permettete un termine non medico, adrenalinico, e quindi induce quella veglia che tanto purtroppo piace all'emicranico più che il relax, e quindi può senza dubbio accendere i motori e fargli passare l'accenno di mal di testa. Dottor Ongaro, ha un altro consiglio da suggerirci prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, così io poi sento i miei ascoltatori, perché abbiamo tante ricette? Ma io, guardi, l'unico consiglio che mi sento di dare è sfruttiamo il weekend non per peggiorare tutto l'accumulo che abbiamo avuto durante la settimana, ma per fare un vero recupero, quindi un'attività fisica moderata, fantastiche le tecniche di rilassamento, curiamo un po' più l'alimentazione, cioè non approfittiamo del weekend per rincarare la dose, ma piuttosto per rigenerarci e essere pronti il lunedì ad avere le energie necessarie per riaffrontare la settimana. Ecco, sperimentiamo delle cose positive. Essere e benessere. Come passo il mio weekend? Ditemelo voi. Sergio da Monza, un consiglio per me. Allora, un consiglio per tutti, buongiorno a tutti prima di tutto. Allora, io faccio il camionista. Lavoro bello duro. Mi alzo tutte le mattine alle 5, faccio la mia colazione caffè latte. Frequento due corsi serali di aggiornamento. E venerdì vado a giocare a calcio. La domenica accompagno mio figlio a calcio la domenica mattina e io sono rilassatissimo. Quindi Sergio, lei aggiunge lo sport, praticato e anche da così spettatore? Sì, anche da spettatore. A sabato mattina aiuto mia moglie a fare, diciamo, il mestiere. Ecco, che quello fa bene. Grazie Sergio. Fa bene. E lei a lunedì è fresco e lei a lunedì è fresco come una rosa. Io a lunedì riparto la mia settimana alle 5 del mattino, in colazione. Bravo Sergio, grazie a Sergio. Andiamo da Gabriella, la provincia di Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno. Nicoletta, io la ringrazio per il suo tono di voce che mi accarezza nei momenti anche più cupi. Grazie Gabriella. Dunque, io dicevo che il mio toccasana è il venerdì sera un bagno caldo, come usava una volta, quando io ero giovane non si usava la doccia. Sì. E infatti per me è stressante, perché è una pratica veloce, va bene d'estate, ma d'inverno non è così comoda. Scivolare nella vasca, scivolare. Questo è il consiglio di Gabriella dalla provincia di Lecco. Gabriella, le farei avere il compendio di psicoanalisi, però poi Laura Vanossi mi dice ecco perché ti ha fatto il complimento, ma io sì. È vero, mi ha conquistata Gabriella, il libro è per lei. Sonia, buongiorno, da Milano. Buongiorno. Sonia, buongiorno. Io non sono d'accordo di aspettare il venerdì. Secondo me bisogna trovare un modo di scaricarsi le tensioni tutti i giorni. Allora, la mia ricetta sarebbe questa che applico su di me. Ogni giorno bisogna trovare una persona che ci fa ridere, sì, o sorridere. Lei l'ha trovata? Me la passa. E poi trovare una persona a quale noi possiamo far ridere o sorridere. Questo è una cosa. E seconda, se uno vuole fare un po' di ginnastica o un po' scaricare le tensioni prima di andare a un appuntamento o al posto di lavoro, fare finta di aver fretta, parcheggiare da 100 metri a un chilometro lontano da questo appuntamento e di correre. Per far finta di essere in ritardo. Sonia, sai che il mio motto è camminare e sorridere. Appunto, brava Sonia, mi piace molto trovare una persona che ti fa ridere, ma trovare una persona, essere noi la persona anche che fa ridere l'altro. Mi piace questo scambio, Sonia, anche per lei il nostro compendio di psicoanalisi. Professor Barbanti, ha visto, qua si può scrivere un libro. Ma quanti bei consigli, innanzitutto quello del ridere, la sintonia alla base della nostra felicità, e poi tutta la serie di interventi, il bagno caldo e quello che diceva anche la nostra maestra di yoga, un po' parlare a nuora perché suocera intenda, cioè agire sul corpo perché il cervello si convinca. Questo mi piace, come si dice, parlare a nuora perché suocera intenda. La nuora è il corpo, la suocera è il cervello che a volte è un po' brontolone, no? Però è vero, anche non pensiamo semplicemente di poter dal centro fare la rivoluzione, facciamola dalla periferia con le tecniche di rilassamento anche molto empiriche. Ma volevo dire una cosa, sì. Il fine settimana proviamo a diventare miopi, noi nasciamo miopi, cioè noi quando siamo piccoli non prevediamo, non programmiamo. Secondo me la maturità, temerei dire la vecchiaia, comincia quando guardiamo le previsioni del tempo. Una volta le previsioni del tempo, quando eravamo piccoli noi, le guardavano gli agricoltori, i tennisti e gli operatori turistici, non ce ne fregava niente di quello che succedeva il giorno dopo come clima. Noi ci troviamo ad essere iperprogrammatori, controllare tutto ciò che succede a distanza e a guardare molte volte con avidità anche il tempo, questo come dimostrazione di questo aspetto presbite, non vediamo vicino, vediamo lontano, questo ci stressa. Facciamo il contrario il fine settimana, per questo stiamo bene il venerdì e forse un po' meno il sabato sera, certamente non la domenica, diventare più miopi, guardare davanti a sé, dimenticare che esiste un futuro che ci attende. Entro certi limiti ci possiamo allenare. Vivere nel qui e nell'ora, e soprattutto io vorrei che dopo questa puntata qualcuno di noi cercasse domani di mettere a frutto uno dei nostri consigli, senza accampare sempre la solita scusa, il weekend vola. Gestiamo meglio il nostro tempo. Qualche consiglio ce lo dà anche Claudio Belotti, coach, autore del libro La vita come tu la vuoi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. 2 minuti di tempo per dire, per organizzare un po' la nostra agenda, anche se uso questo termine impropriamente, perché l'agenda il weekend non dovremmo neanche tenerla, non dovremmo neanche considerarla, ma insomma per organizzare bene il tempo. Allora sarò velocissimo. La prima cosa è sì, buttare via l'agenda, vivere il momento e ricordarsi delle piccole cose, come una colazione o un caffè bevuto con calma, che purtroppo durante la settimana non ci concediamo, o fare una chiacchierata con un amico, o come ha detto il professore, non prevedere, o meglio, mettere nel weekend qualche ora libera, così che se abbiamo qualche imprevisto lo possiamo gestire serenamente. Se non ce l'abbiamo, ci godiamo un po' di far nulla, oppure ci godiamo qualcosa che non ci permettiamo di fare durante il weekend perché dobbiamo sempre produrre risultati. E allora perché non approfittare del weekend per fare qualcosa per il piacere di farlo, non per avere un risultato, un obiettivo, ma solo per il piacere di farlo. Quindi anche per non perdersi può essere utile fare una sorta di dare una lista di priorità? Assolutamente, mettendo in cima quelle che ci piacciono. Assolutamente, e il mio consiglio è assicurarsi di incominciare una cosa e di finirla, in modo tale che la sera, se non abbiamo fatte tutte le cose che volevamo fare, almeno quella più importante o quella più piacevole, l'ideale sarebbe la più importante e più piacevole, l'abbiamo portata a termine e quindi abbiamo un senso di soddisfazione, perché poi quello che conta è quello che noi sentiamo, le nostre emozioni. Quindi se stiamo bene, il weekend è andato bene. Allora, domenica sera io aspetto i vostri resoconti del weekend sul nostro profilo Facebook. E intanto, professor Barbanti, il weekend è anche fatto per sognare ad occhi aperti. Sì, facciamolo, cominciamo. Regaliamoci un sogno. Ecco, facciamo una cosa, facciamo intanto un sogno ad occhi chiusi in maniera tale che si cambia la scenografia, scusate i riferimenti chimici, via la noradrenalina, su la serotonina, su la acetilcolina, l'umore, le emozioni positive. Fatto per sognare ad occhi aperti? Certamente sì, ma dobbiamo sfocare l'immagine, cioè non dobbiamo vedere lontano, è l'unica maniera per non essere condizionato. Se vediamo troppo in fondo, chiunque di noi quando debba concentrarsi chiude gli occhi, chiunque di noi quando debba, addirittura il cantante quando è molto ispirato chiude gli occhi per non distrarsi, evidentemente dobbiamo sfocare l'ambiente esterno, sforzarci di non prevedere, sforzarci di ricavare tempo, e questo abbiamo sentito in 1000 interventi oggi, in questa maniera parliamo noi e abbiamo molte volte dei talenti che, a differenza delle genialità, non sono innati ma sono assolutamente scopribili, evocabili e possono venire fuori. Pittori a 70 anni, cantanti a 50, certamente non sportivi o dopo una certa età, ma tanto è all'interno di noi e può emergere. Grazie a Benedetta Spada, al professor Barbanti, a Claudio Belotti, grazie a voi che ci avete inoltrato di ricette per il weekend. E intanto domenica ci scriviamo. Com'è andato questo weekend? Intanto vi aspetto lunedì dopo il GR delle 11. Essere e benessere.